io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e come ho detto prima penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Senta, Andrea Stracioli, lei mi è molto simpatico ormai da tempo, però glielo devo dire, visto grazie. Che non hanno il coraggio di farlo, lei è esonerato. Glielo dico io. Lei, lei ne è sicuro? Sì, sono sicuro, è sollevato dall'incarico. Lei non è più l'allenatore dell'Inter. Non hanno il coraggio di dirlo, insomma, in qualche modo bisogna pur farlo. Ci mettiamo una mano sul cuore, lei è esonerato. Va bene, aspetti un attimo che... Allora, per cortesia, mi prepari la valigia, metti le mutande nella stuccia a sinistra, invece le canottiere nella stuccia a destra, poi facciamo le scarpe, no? Così avviso un attimo a casa, se mi dice così almeno sì, facciamo la valigia, bene. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Should I stay or should I go? Dove va Stramaccioni? Oggi a casa, è malato. Dice Moratti, Stramaccioni è malato, non prevede novità in giornata, è come... il giocatore infortunato cui non viene mostrato subito il cartellino giallo o rosso prima che si rialzi da terra. È il tempo delle chiacchiere, no? Oggi leggo Higuain dice sia la Juve Higuain, c'è l'accordo, non ci credo neanche se lo vedo. 800 24 00 24. Intanto De Laurentiis, come poi sentiremo, fa dopo le dichiarazioni compassate di ieri, fa il solito show. E anche oggi, ragazzi, ci divertiamo tra calci sordi, sì, ci divertiamo tra il calcio, il basket, dove Milano viene presa a calci nel sedere da Siena. Io vedo, poi ne parleremo con l'ospite che verrà, uno strano parallelo nel futuro di Stramaccioni e in quello di Scariolo, due allenatori che hanno vinto in modo diverso, che hanno esperienze diverse, ma tant'è, c'è anche la cronoscalata al Giro d'Italia. Insomma, io vi aspetto 800 24 00 24. Tanti infortuni come questa stagione l'Inter non li aveva da anni, da tempo, e ovviamente i risultati si sono visti sul campo. Siamo stati costretti a giocare per le ultime partite con la coppia d'attacco formata da Rocchi e dall'Abbadante. Voi sì. Sapete che Tommaso Rocchi ha circa l'età del presidente napoletano, per cui... E questo, Stramaccioni, made by Autogol, come avete sentito ieri. Michele Plastino, grazie. Grazie a te. Come stai, Michele? Tutto bene. Tutto bene? Sì. In questa fase per qualche giorno automobilistica, perché devo preparare delle cose che sono in relazione so che sei a Monte Carlo, beato te, ti invidio. Ti invidio assai. Uno dice vado a lavorare lì e invece è veramente un'ipocrisia, perché sì, si lavora però in un contesto fantastico, e non posso vedere il Gran Premio, tra l'altro, quindi devo lavorare prima perché poi c'è il derby domenica, devo fare lo speciale la sera, quindi chiaro. Quanta gnocca c'è? Ah, io sono reduce, non so di che cosa tu stia parlando. Ci potrebbe essere mia moglie all'ascolto. Io non ne ho, ti vengo a trovare. Va bene. Senti, ma il derby domenica si carica di un sacco di significati, compreso il futuro allenatore della Roma, che sarà Massimiliano Allegri. E tu ne sei proprio convinto? Sì. Allora ci credo. No, tu no? Passa, io pensavo anche nel giro nel valzer così delle panchine, no? A qualche colpo a sorpresa all'ultimo, perché non so se ci hai fatto caso, è stato un momento di grande illogicità. Nel senso, Allegri eventualmente alla Roma, per carità, è comunque una bella piazza, una bella città piena di insidie, dove qualsiasi cosa uno vada a fare adesso è meglio di quello che è stato fatto quest'anno. Questo è un ragionamento più mazzarriano, però, che non di Allegri. E mi chiedo perché avrebbe forse detto no al Napoli, laddove il Napoli invece è ancora in Champions. E abbiamo capito che adesso gli allenatori badano molto anche all'immagine internazionale, perché appena uno va all'estero guadagna Michele, il doppio, pensa a Mancini. Posso dirti la mia idea? È perché come tutti gli allenatori sa che ha spremuto il meglio ed è stato bravissimo a spremere il meglio, che più di così non può fare. Questo Mazzarri. Però nel contesto di Allegri la situazione può essere un po' diversa, e poi per Mazzarri il discorso è valido perché adesso ci potrebbe essere l'Inter, no? Sembrerebbe da un momento all'altro, anche se ho come la sensazione che Moratti debba farsi un po' una violenza per prendere Mazzarri, che è un ottimo allenatore ma con atteggiamenti che non credo lui ami molto. Però al di là di questo è un ragionamento validissimo, perché è arrivata l'Inter, ma prima dell'Inter, dove si parlava dell'anno sabbatico della Roma, un allenatore e un professionista, secondo te, rinuncia così facilmente a una proposta di 4 milioni per 3 anni che gli aveva fatto De Laurentiis, che non sono solo soldi, ma di questi tempi sono soldi sicuri e puntuali, perché De Laurentiis c'era 1000 difetti, certo, ma paga così. Certo, paga. Certo. E quindi è tutto illogico, per cui nella illogicità mi aspetto un colpo a sorpresa da un momento all'altro, anche perché se hai letto le dichiarazioni, hai sentito quello di De Laurentiis che parlava di un allenatore che inizia con M, no? Sì. Tutti hanno fatto Mancini, Monte. Io, siccome poi De Laurentiis è furbo, però a poker è un po' carta conosciuta, proprio come dicono a Napoli, allora ho detto, e se fosse Massimiliano? Anche questa carina, anche questa ipotesi è suggestiva. Senti, invece alla Lazio che succede? Cosa può cambiare la partita di domenica? Può cambiare tutto, anche se non lo condivido, nel senso che tutto relativo a una partita. Sono due, diciamo la verità, Lazio e Roma sono due squadre che, seppur in maniera diversa, hanno fallito la stagione, o perlomeno hanno fallito il campionato. La Roma, nella sua discontinuità... Ma io la Lazio credo di no, Michi. Pensaci bene, allora, perché sono due momenti diversi, cioè due modi diversi. La Roma ha fallito perché dalla prima giornata, anche con Zema, ma pure dopo Zema, si pensava la Roma può vincere o perdere tutte le partite. Certo. Ovviamente vinte poche ed ha fallito fino a una giornata, cioè ha fallito tutto il campionato. La Lazio è partita benissimo, ha giocato anche bene, ha un ottimo allenatore per me, però sta di fatto che è crollata nel finale. E allora molti contestano il presidente per una mancata campagna acquisti di gennaio, altri parlano di preparazione, tutto quello che vuoi. Però alla fine la Lazio non è andata in Europa, la Roma non è andata in Europa e decide tutto la finale di Coppa Italia. E poiché nel calcio si vive dei risultati, mentre anch'io come te ritengo che un esame vada invece approfondito anche in altro modo, però vedrai che chi vince la Coppa Italia salva la sua stagione. Sì, io però resto convinto del fatto che la Roma abbia fallito, sì, perché è organico competitivo più della Lazio, la Lazio abbia fallito, no, perché ha fatto il campionato che doveva fare, ha fatto un'eccellente figura in Europa League, e per me non contano solo i risultati. Hai ragione. Ma conta anche il feeling sportivo che tu hai con una manifestazione, come è il discorso che si può fare per il Napoli in Champions League 2 anni fa, no? Non hai vinto niente. Ma non in Europa League, però. Ma certo, ma l'Europa League che tutti spernacchiano, la Lazio quest'anno l'ha onorata e quindi secondo me ha fatto una grande figura. Poi alla fine la classifica fuori, è la classifica è quella che è, con Klose che è stato fuori il tempo che tu sai, quindi io non sono d'accordo sul fatto che la Lazio abbia fallito la stagione, semplicemente questo, Michele. Allora, in relazione a quello che tu mi hai detto, sono d'accordo con te. Io sto parlando dell'idea che c'è in giro. L'idea che c'è in giro è che la Lazio comunque non è riuscita a ottenere il risultato e ci si chiede perché. Io sono con te, ha giocato bene, c'è un ottimo allenatore, ma l'organico è limitato, nei 12 quindi qui nasce la critica eventualmente alla società, perché la Lazio il 13 gennaio aveva 3 punti della Juve della seconda. Mi ricordo bene. Quindi lì tutti dicono ma con un sacrificio eccetera eccetera si poteva puntare a rimanere così. No. L'unico problema è capire chi puoi andare a comprare, cioè certo. Che disponibilità era, ci era sovradimensionata allora e non sarebbe bastato un sacrificio per tenerla lì, perché un paio forse almeno in Europa League ci arrivavi facile, perché insomma sicuro. La Lazio nel finale è stata disastrosa. Adesso mi affido al Papa invece per la finale di Coppa Italia. Mi affido veramente con il cuore, perché come lo ritengo comunque un avvento straordinario e positivo, questo fatto che siano andati ieri le delegazioni, no, penso proprio un po' le squadre, sia di buon auspicio, perché altrimenti la situazione a mio avviso è realmente ansiogena, perché tu ti immagina una finale dove finisce la partita sì. E i tifosi vedono alzare la coppa, pensa quelli della Lazio vedono alzare la coppa a Totti. Mamma mia, Michele, grazie. Buon divertimento laggiù a Monte Carlo. Spero di no. Questo lo so. Grazie Michele Plastino, grazie. Tutti convocati. Allora, c'è chi mi scrive via SMS 349-238-6666. Hai rotto, ma quando vai in ferie sei veramente penoso con questa storia degli allenatori, basta, non se ne può più. Allora, quando vado in ferie, via Monterosa 91 è l'indirizzo, quando mi mandate delle buste con i soldi io vado, aspetto i vostri versamenti, altrimenti sto qua. Marco Milano, buongiorno. 800 24 0024, numero verde. Pronto? Ciao Marco. Sì, ciao. Allora, io telefonavo per questo motivo qui, semplice, che due premesse. La prima è che per me Silvio Berlusconi è un dio, da milanista per me. Quello che fa lui va tutto bene. La seconda premessa è che Allegri è giusto che se ne vada, perché l'anno scorso ci ha fatto perdere lui il campionato. Io ero lì con Milan Bologna, Milan Fiorentina e in panchina. E quest'anno? E quest'anno non è andato male, però se ne va, per carità. È Sedor che mi fa paura. Come si fa? Dopo un anno che finalmente ce ne siamo liberati, che tutti siamo contenti, è andato via, adesso ci torna da allenatore. Allora qui però non ci capiamo. Allora, se Berlusconi è un dio, non farmelo dire più, vuole Seedorf. Seedorf è stato un giocatore mostruoso, nonostante il pueblo milanese. Non è vero. Marco, l'ultima bella partita che ha fatta l'ha fatta nel 2007. Non è vero. Uno che divide lo spogliatoio, che litiga con tutti. Non è vero. Io non lo so, Marco, mi sei molto simpatico, ma ognuno tiene le sue idee. Secondo me Seedorf è stato uno dei più straordinari centrocampisti degli ultimi 10 anni, poi divide lo spogliatoio, poi questo non lo so, poi forse viene messo da parte lui, come ho il sospetto sia stato fatto l'anno scorso, però io guardo il campo e sul campo Seedorf secondo me è stato un giocatore straordinario. Poi se diciamo che Seedorf non è un allenatore di calcio che sta seguendo il corso allenatori su internet, beh, allora siamo d'accordo. Cioè, se vogliamo prendere un allenatore, Seedorf non è un allenatore, è uno che capisce il calcio come pochi, ma non è un allenatore. Se però dici che Berlusconi è quello che è, allora fidati di lui, no? Se no, guarda che a quanto ne so, se non arriva Clarenzio, viene uno degli altri tre olandesi, Van Basten, Gullit e Rijkaard, non so in quale ordine, così fischiano gli uccellini, quindi non so cosa sia meglio o cosa sia peggio. Massimiliano Allegri è un allenatore di calcio, però quello che tu hai definito un dio non lo vuole più vedere neanche in figurina. 800240024, anche oggi vedo che evita di parlare del suo idolo, Lamenti Rossi, altro che doctor, ormai direi paziente, come sei noioso ascoltatore. Di Valentino Rossi parleremo e non abbassiamo la testa, la guardia e gli occhi. Valentino Rossi è un mio idolo sportivo e lo resta. Puoi scrivermi anche tutti i giorni, anche tutti i messaggi che vuoi. 349-238-6666. Allora, non sei a posto. Non sono a posto, no, come dice questo che avete sentito, papà di Valentino, non sono a posto, non lo sarò mai. Comunicato Milan di 2 minuti fa, allora aspettate che ve lo leggo, Walter stai lì, Walter da Mantova. Comunicato Milan di 2 minuti fa, i miei rapporti personali di lavoro con Silvio Berlusconi datano 33 anni, stima e affetto non sono mai stati incrinati dalla normale dialettica che deve caratterizzare ogni rapporto umano e professionale di valore. Non sono stati mai e non lo sono oggi, contrariamente a quanto mi accade di leggere. Ebbene, ieri Barbara Berlusconi ha detto sul tema, quella e solo quella è infatti la verità. Firmato Adriano Galliani. Questo è quanto, signori miei. 800 24 00 24, numero verde. Walter da Mantova, ciao. Sì, salve. Senta, il derby di Roma, la finale di Coppa Italia, è sicuramente il derby più importante degli ultimi 80 anni. E i tifosi, quelli in gamba, diciamo, se la stanno caricando un po' troppo, ma soprattutto quelli pronti alla violenza. Quella partita sarà la tempesta perfetta, io lo so benissimo, ma anche l'orario. Aver scelto le 18 significa che questi signori pronti alla violenza avranno tutto alla mattina per riposare, poi avranno da mezzogiorno alle 18 6 ore per fare quello che vorranno, e una volta che la partita sarà finita alle 21 più o meno, avranno altre 4-5 ore, se avranno perso o avranno vinto, per fare tutti i disastri possibili. Io lo so benissimo perché a Roma ci sono stato parecchio. Sì. E io prevedo un cataclisma. Tutto questo. Io leggevo ieri di 1000 agenti mobilitati, eccetera, eccetera. Sarà una partita, ma secondo lei l'ora fa la differenza? Cioè, in un altro orario sarebbe stato diverso? Io penso di sì, perché. Perché se giocano alle 6 del mattino, magari questi non. Ma forse fanno il dritto, no? Arrivano direttamente carichi da sabato sera, non lo so. Mi sembra un problema difficilmente risolvibile se non con il buon senso dei manganelli. Non credo che l'ora faccia così tanta differenza, Walter. Cioè, giusto secondo me non giocare la sera perché poi con il buio diventa tutto più difficile, però se la partita finisce alle 20:30 cosa vuole che le dica? C'è la possibilità di vedere, magari di filmare, magari di ingabbiare qualcuno, che ne so. È chiaro che stare a parlare di queste cose è veramente il minimo della vita, no? Mi sembra che sia il minimo della vita. Poi se succederà qualcosa, sarebbe successo anche a mezzogiorno, se lei dice hanno tutta la mattina per riposare, potevano svegliarsi alle 10 e far casino uguale, insomma. Vediamo domenica, e io spero in una giornata di civiltà e manganelli dove servono. Marco, provincia di Varese. Grazie della convocazione, buongiorno a tutti. Grazie a te. Allora, io dico una cosa che veramente finalmente posso dirlo un po' a tutti, ma fare cancan mediatico, non da parte vostra naturalmente, ma su Allegri, ma stiamo parlando di un allenatore dir poco mediocre, perché tutti dicono quest'anno è riuscito, il primo anno ha fatto quello che era impossibile non fare, vincere con quel Milan quell'anno lì, l'anno scorso è riuscito nell'incredibile impresa di perdere lo scudetto, quest'anno se non avesse trovato sto ragazzino che gli faceva 16 gol in 3 mesi, leggendo sulla carta la formazione di partenza, non dico che era da Coppa Campioni, ma neanche da terz'ultima, c'erano altre squadre. No. Quindi voglio dire, questa difesa da parte del pubblico, della curva adesso, gli stessi che hanno fischiato Maldini e non hanno detto niente su Ancelotti che veniva mandato via, questi qua sembra che Allegri, per me c'è qualcosa, la società è spaccata al suo interno e manovra anche questo tantan mediatico sul tenere Allegri, perché non me lo spiego in altro modo io. Marco, la sua è una lettura, io dico che Allegri, lei dice, se non avesse trovato questo ragazzino, intanto ha avuto così il coraggio, o l'intuizione, o l'incoscienza, o il culo di aver fatto giocare con continuità il Ciarrawi, ha avuto le stesse componenti nel fatto giocare con continuità De Sciglio, che secondo me è un giocatore estremamente interessante ed estremamente futuribile. Ha avuto il coraggio e l'incoscienza di cambiare il Milan e di risalire comunque dall'inferno fino al terzo posto. Secondo me quest'anno Allegri ha allenato bene. Poi lo ripeto tutte le volte, se stiamo a guardare il monte ingaggi del Milan, che è il più alto della Serie A, e guardiamo il meno 15 dalla Juventus, possiamo fare altri ragionamenti. 800 24 00 24, io vi aspetto qui dopo la borsa. E io dico delle cazzate perché mi voglio divertire, tutto qua. Tutti convocati. Sì, ve li farei sentire per tutta la mezz'ora o per tutta l'ora, ma Show Business non è un titolo scelto a caso, perché ha parlato di nuovo lui, nostro idolo incontrastato, De Laurentiis. Aurelio, che tecnico vuole, che allenatore vuole? Il nuovo allenatore mi deve convincere per le palle che c'ha, e le palle sono rotonde, quindi la circolarità del convincimento deve essere totale. Capito, no? È una questione geometrica, geometrica, appunto, geometrica. Ma c'è De Laurentiis che fa anche la lista degli allenatori palluti che ha contattato negli ultimi mesi, perché dell'addio di Mazzarri si sa da un po'. Allora, lista. Ma abbiamo sentito Rafa Benitez, abbiamo sentito Pellegrini, abbiamo sentito Villa-Boas, abbiamo sentito Di Matteo, abbiamo sentito io chiamai Klopp, che mi disse che fino al 2016 non era possibile. Chissà se gli ha fatto l'esame, oltre ad averli contattati. Ha fatto le misurazioni. Non voglio andare oltre, la lista dei tecnici non finisce qui. Ne posso citare tanti altri, vuole? Blanc della nazionale francese, De Blanche, che era quello che portò la Juventus in Serie A. Deschamps, scusate. Italiani li ho sentiti tutti, quelli che potevo sentire. Quanto ai giocatori? Cavani, che succede? Ma se rimane Cavani non posso portare nessuno, che vuol dire? Se no che fanno? Portano a cazzotti, tra di loro. Bisogna vedere, state calmi, state manzi, si dice a Roma, state manzi. E poi dopo, state tranquilli, che il ragù viene fuori, pure buono. State manzi ragazzi, state manzi, che c'è un gran finale. Io chiamo subito al telefono, ho detto io vorrei 16 da subito. Però se tu non fai rompiscatole e la mosca Zezé in continuazione, questo è un paese radicato sul cazzeggio. Questo è un paese radicato sul cazzeggio, caro Massimo da Siena. 800 24 00 24, ciao. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Passo però al basket. Ma volentieri, ci passiamo anche noi tra pochissimo. Grande, allora ti anticipo, innanzitutto appassionato di palla a spicchio ovunque sia. Ovunque, mondo. Sempre, comunque. Comunque, ovunque sia. Vengo con te, ovunque. Senti anche la voce da Siena per celebrare una grandissima vittoria, anche se da appassionato e simpatizzante comunque di Milano, dispiace nel vedere come è stata gestita societariamente, tecnicamente e tatticamente gli ultimi due anni di Milano. Dico solo gli ultimi due anni per fermarmi. Ma tifi Milano o Siena, mica ho capito? No, io sono totalmente senese, però simpatizzante Scarpette Rosse dal Billy, simpatizzante. Famoso Billy, Peter, cioè, va bene. Sono nato con loro. Senti, ma Daniela che giocatore è? Daniel è fantastico. No, ma perché poi piangiamo, no? Ci lamentiamo, ma non ci sono giocatori italiani, ma come siamo messi male con la nazionale. Insomma, io uno come Hackett e uno come Datome, tanto li prendo, poi vediamo se quelli dell'NBA se sono giusti e hanno la voglia e le palle per venire a giocare qua e poi ne discutiamo, perché sì, Daniel Hackett oggi è un giocatore d'Eurolega, ieri sera ha distrutto Milano, c'era questo equivoco per cui non è un playmaker, però... non ha tiro, però abbiamo visto che giocatore è. Sì, però ci vuole anche chi le sappia gestire anche a livello tecnico, perché forse in mano a Scariolo non avrebbero avuto questi successi che stanno avendo da Tome e Hackett. In questo momento sono due grandi allenatori, secondo me, come Banche e Calvani a Roma, secondo me. Perché Scariolo forse guarda quello che sta facendo l'involuzione di Melli nelle ultime partite e quello sta facendo Ne parliamo. Allora Massimo, facciamo così, ne parliamo tra un attimo dopo che abbiamo sentito prima Banchi e poi Scariolo e poi abbiamo un mio amico, Banchi. Questa serie ci ripaga e ci avrebbe ripagato a prescindere dal risultato della gara di stasera, perché affrontare un avversario come questa e giocare alla pari, considerato anche i precedenti, perché il campionato abbiamo perso due volte, è vero la seconda in modo racambolesco, ma non c'era Langford, non c'era Hackett, era poco indicativo. La realtà è che sembrava le distanze tra noi e Milano ci fossero e siamo stati invece bravi a colmarle, e questa serie aveva a prescindere dimostrato che queste squadre tra loro sono piuttosto vicine. E portare a casa la serie stasera è una soddisfazione grandissima, ma prima di tutto perché vediamo realizzato proprio quello che siamo riusciti a ripristinare dall'eliminazione dell'Eurolega all'inizio di questa serie playoff. Beh, Massimo, sei un po' prestino, sono passati due minuti dalla fine della partita, per cui però non faccio fatica a riconoscere che non abbiamo centrato gli obiettivi che ci avevamo preposto. Quindi l'allenatore si assume per primo le responsabilità di tutto ciò, con la sicurezza che ognuno di quelli che fanno parte di questa famiglia faranno lo stesso. La responsabilità la assumo per quello che mi compete. Allora, abbiamo sentito: tutta responsabilità me l'assumo. Vabbè, ma questo mi sembra abbastanza normale. Il mio amico è Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. Grazie a te per aver risposto, Mario. Allora, Scariolo come Stramaccioni, eh? Beh, io direi che Scariolo... Anche se è qualcosa di diverso, hanno vinto, hanno avuto una carriera diversa, però in questo momento... Eh sì, io direi comunque Scariolo male, Milano male, io non me lo aspettavo, io ho sbagliato tutti i pronostici, devo essere sincero. Io no. Nei miei appuntamenti con Sky... Io no. Io tra l'altro proprio a livello di talento, di tecnica, Milano è tre volte superiore a Siena, io ne parlavo proprio stamane con Luca Banchi, avuto in trasmissione. Sì. Però Siena ha quella capacità che ormai è nel DNA di saper mettere nelle partite che contano quella cattiveria agonistica che è fondamentale quando si giocano i playoff. E guarda, anche poi insomma Sanichis, io non mi aspettavo neanche la prestazione di Sanichis, un Daniel Hackett straordinario al quarto quarto. Daniel Hackett mostruoso. Mostruoso, ma al di là di tutto è proprio l'atteggiamento mentale, bravissimo qui Luca Banchi a sistemare tutte le cose difensivamente. Invece Milano è la grande incompiuta dell'anno, perché è stato un fallimento, purtroppo è stato un grande fallimento, perché io ritengo, penso che tu sia d'accordo, che Milano sia fondamentale per la pallacanestro, così come Roma, le grandi città devono fare insomma, i risultati. Mario, lo stiamo dicendo ormai da troppi anni e poi mi sa che quest'anno Siena è ancora la favorita numero uno. Tutti convocati. Allora Mario Boni, io c'è una cosa che non capisco, cioè tu sei stato un giocatore di grande temperamento, di grande garra, no? Allora, vedendo Basile seduto 40 minuti ieri sera come molte altre volte io fossi stato in Basile alla fine della partita della serie con l'eliminazione, avrei preso la mia borsa e avrei avuto qualche cosa da dire. No, io me ne sarei andato prima. Io purtroppo tu sai il carattere che ho. Io lo sinceramente so. Tra servire il tavolo ai tavoli in paradiso o mangiare la tavola principale all'inferno, ho scelto sempre l'inferno. Sì. E quindi io se fossi stato Basile non mi sarei, cioè io dopo quando fai un NE o giochi 5 è peggio giocare 3-4 minuti e poi uscire, io probabilmente avrei abbandonato, perché c'è un qualcosa che va al di là del far parte di una squadra, ci vuole Basile è un grande giocatore, gli anni passano, sì. Ecco, non mi piace così, non mi però, piace. Però scusa Mario, non poteva essere gestito come viene gestito come non lo so Carraretto, come tu dici come Carraretto. Come Carraretto uomini, o come Carlo. Viene gestito Becirovic, come è stato gestito l'anno scorso da Sasha Djordjevic Becirovic, cioè tu giochi i momenti, i 5 minuti chiave qui, 5 minuti chiave lì, sì. Arrivi, allora, giochi 12, 13, 14 minuti nei momenti chiave, certo. Prendi fallo, tiro libero, prendi problema, tiro da tre punti. Ma no? Certo, il problema di Milano è troppi giocatori. Prima di tutto io non avrei mai preso Bremer, ma avrei fatto giocare Giacchetti. Questa è la condizione basilare. Dopodiché io non avrei mai firmato Malik Ashton, mai firmato Malik Ashton a quel prezzo, mai. Avrei tenuto Gentile, avrei forse Keith Lengro sicuro, un cambio italiano che accettasse il ruolo. Io ripeto sempre, da quando faccio pallacanestro e l'opportunità di commentare il basket, ci vuole l'accettazione del ruolo e la gratificazione di quello, sì, che fa, sì, Milano, sì, non li aveva. Sono d'accordo. Keith Langford, basta guardare il rientro di Keith Langford, ha spostato degli equilibri che a Milano sembravano perfetti dopo gara 1 e gara 2. Mario, sì, ma ci vuole, ripeto, Gentile a me è un giocatore che piace tanto e quindi è un giocatore da quintetto, perché valorizzare i giocatori italiani, ci sono bravi e fanno bene, troppi giocatori non creano la coesione e quello che è successo a Milano. Certo. Senti cosa ci ha detto ieri Trinchieri. Mi sembra che la parte del tabellone di là sia molto ben attrezzata. Andrò controcorrente, ma secondo me per le congiunture astrali quello che sta succedendo è l'anno dei prealpini. Ah sì? A pelle. A me piace arrivare a luci spente comunque, sempre. Allora, c'è chi scrive: intanto ridicoli, Del Piero è un professionista perché non contesta il mister, Basile è un coglione perché non contesta il mister, Luca da Milano, e non lo so, non credo che né Del Piero né Basile siano dei coglioni. Questo no, è quanto. No, lì è anche la gentilezza d'animo, il sapere essere anche campione nel momento in cui le cose non vanno bene. Sono scelte, Basile troverà un'altra squadra. Beh, devo dire l'ultimo commento, Carlo, su Trinchieri, è stato bravissimo a superare la serie. Perché io, la mia favorita era Sassari, ha trovato un ottimo playmaker come Joe Ragland, e permettimi di dire che la semifinale che io mi voglio gustare è sicuramente quella tra Varese e Roma. Siena. E Siena, certo. Sì, Varese e Siena. Sbagliamo un pronostico insieme, chi vince lo scudetto? Io dico Siena, ma per questione di profondità. Tu dici, io potrei dire Cantù! Lo spero tanto, ti dico la verità, lo spero tanto anche per avere qualcosa di diverso, mica peraltro. Non lo so, però è molto difficile, io, tu sai che io sono simpatizzante delle squadre abruzzesi della mia Montecatini, sì, lo so. E però è così, preso per tirare il calcio di rigore, lo dico così. Ecco. Ti voglio bene, ciao Mario. Un abbraccio, ciao Carlo. Ciao Mario Boni. Paolo Pistoia, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Una domanda su Ake. Sì. Ora, giocatore di carattere, ha fatto il fenomeno, bravissimo, giocatore di Eurolega, si vedrà, insomma, per ora. Pescariolo, cioè, secondo lei non c'era un modo diverso di marcarlo? Cioè, uno contro uno si batte il difensore 10 volte su 10, si è visto. Chiunque ci metteva davanti lo batteva. È capace a far canestro da tre punti? Hackett? Hackett, sì, ha un tiro ondivago da tre punti e questo è sempre stato l'appunto che è stato fatto a Recalcati quando diceva vedermi. No, secondo me non è un playmaker, è un giocatore mostruoso come guastatore, come point guard, come è uno che ha bisogno di avere vicino, di avere un playmaker, uno che faccia playmaking vicino. È diventato una guardia mostruosa, a me ricorda in questo momento, anche dal punto di vista fisico e dell'impatto sulle partite, l'Antonello Riva degli anni 80. difficile da marcare. Io gli lascerei spazio perché il tiro da tre punti, come detto, non è la sua specialità, ma quando va dentro davvero fa male. E ieri sera poi è uno che ha le palle vere, e si è visto ieri sera nei momenti che contavano, e non è la prima volta. Quindi giocatore in questo momento mostruoso, dominante. Scrive l'amico Stefano Valenti su Twitter: ad oggi candidati MVP, quindi miglior giocatore dei playoff di basket, sono solo giocatori italiani, anche da Tome, Aradori, Cinciarini. Quindi questo dedicato ai frignoni che dicono ma non c'è nessuno nella nazionale, ma come facciamo, come siamo poveretti. Cameriere, per piacere fammi bere, c'ho una sete favolosa, al mio amore porti una gattosa, sono in fuga per la maglia rosa, lascio le finestre spalancate, passa il giro per le strade. Pennellata di rosa per chiudere questa puntata. Pier Augusto Stagi dal Giro d'Italia, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Oggi cronoscalata. Thanks. Sì, oggi cronoscalata. Sì. Al momento in testa è un britannico, Stephen Cummings, che ha fatto registrare il miglior tempo, 47.08, media 26.223. E quindi questo, diciamo, è il risultato al momento. A che ora parte Nibali, tanto così per la cronaca? Parte alle 4:30. Quattro e mezza. Quanto conta questa cronoscalata negli equilibri del Giro d'Italia? È il momento cruciale? Sì, assolutamente sì. Per parafrasare Bruno Reverberi, esperto direttore sportivo, oggi si separeranno i maschi dalle femmine, come si suol dire. Quindi oggi si farà una bella selezione. Sì. E così, questo il ciclismo è uno sport particolare, dovete capire. E poi lì non esistono tattiche, non esistono giochi di squadra, esistono solo le gambe, la bicicletta, i pedali e vai su. Esatto. No? Ed è una cronoscalata molto impegnativa, quindi oggi Vincenzo, che in corso spera di fare una bella crono, molto bella, a tal punto anche magari di portare a casa la vittoria, ma non sarà così facile, perché Cade Evans, ad esempio, l'ha provata 10 volte questa salita, e veramente lui potrebbe oggi giocarsi la carta importante per sperare di vincere ancora questo Giro d'Italia, mettere pressione a Vincenzo. Vincenzo a sua volta invece vuole guadagnare almeno una manciata di secondi, possibilmente mettere una ciliegina, perché l'ha detto chiaramente anche ieri in conferenza stampa, gli manca la vittoria di tappa. Qualcuno l'ha rimproverato, gli ha detto ma potevi vincerla quando sei arrivato con Mauro Sant'Ambrogio ad un passo dalla vittoria. Oggi lo vediamo, oggi è giorno che decide tutto. Ci sentiamo nel GR delle 6, delle 18 con Pier Augusto Stagi, per sentire come sarà andata questa cronoscalata decisiva per il Giro. Grazie a lui, a voi tutti convocati, a Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. A domani alle 2. Fatta la festa, gabbato usanto, chi ha avuto scordato il nostro passato. Tutti convocati.